Signore e signori, i fuori posto! I fuori posto di Umberto Alezio e Filippo Roma. Buongiorno da Filippo Roma e Umberto Alezio. Che so sti fuori posto? Fuori posto siamo un po' tutti noi, no? Siamo io e Umberto che stiamo a Radio 24, non si sa perché. Fuori posto forse siete anche voi che magari state al mare e vorreste tornare a casa perché già vi siete rotti le palle, oppure perché state in ufficio e vorreste andare al mare. Insomma, tutti un po' nella vita siamo stati fuori posto. Tu Umberto, io ancora non ho capito, stai fuori posto o stai a posto? Allora, io più che fuori posto sto sotto a un treno, no? E anche molto, molto, molto, molto, molto sottoterra, no? Sai da quando? Già intuito. Lo sai? Dimmelo tu. Da quando ti ha lasciato una certa persona? Da quando mi ha lasciato quella che ormai... Ma io non mi sono lasciato, cioè per me c'è sempre, per me è come... Ghost, il fantasma, no? Per me lei è talmente bella, talmente pura, talmente alta, no? Come è qualcosa di etereo, no? Cioè, quindi io, Umberto, non riesco più ad andare avanti perché già la seconda volta che mi parli di questa cosa e già mi commuovo ogni volta che sento sta storia. Diciamolo per chi non ci ha ascoltato ieri, io sono finito fuori posto e da allora non riesco a trovare una linea, una barra, no? Direzionale, da quando la mia ex mi ha lasciato. Anzi, sì. Approfitto, faccio un uso privato dei microfoni di Radio 24 e le mando un bacio. Ciao amore. È un bellissimo momento. Vabbè, ricordiamolo a tutti, Umberto è stato fidanzato tanti anni con questa bellissima ragazza che a un certo punto... C'è qualcosa di più di bellissima, eh? Meravigliosa. Di più? Stupenda. Un sogno. She may be the face I can't forget. Era troppo bella, bello, per te. Era troppo, grazie, bella per te, infatti ti ha lasciato, diciamo. Infatti, diciamo, ho capito, era troppo per me. Era troppo per te. Però ripetiamolo, se ci stai ascoltando, Umberto sta qui che ti aspetta. Ti aspetta a braccia aperte. Ovunque tu sia e con chiunque tu sia. Anche che mi sono rotto le palle di averlo qua accanto, triste, che piange e che manda sti baci al cielo. Bacio. Ecco là il bacio. Ma a parte me, no? Tutti sono finiti almeno una volta fuori posto, no? Beh, fuori posto può succedere quando subisci una truffa, ad esempio la truffa dello specchietto, no? Che cos'è sta truffa? Sta truffa è una truffa che capita in tutte le strade italiane, no? E ci sono parecchi polli all'occhi che ci cascano. Cioè, in che senso ci cascano? Cioè, come funziona la truffa dello specchietto? Funziona in questo modo. Io, il primo dei polli, Umberto, sono io, perché tanti anni fa, ebbene sì, lo ammetto, sono stato truffato. Cioè, pure tu ci sei cascato? Come un cretino, sì. Cioè, tu stai in mezzo a una strada, cammini dentro la tua macchina, c'è tutto, senti un rumore forte, ti sembra di aver dato una botta a qualcuno, quel qualcuno ti ferma e ti dice: oh, mi hai rotto lo specchietto, me l'hai rotto. Tu ti senti in colpa, appunto, e inizi a parlarci. Lui ti propone un rimborso, un risarcimento. A quel punto tu, per toglierti dalle scatole, ormai ti ha riempito le parole, gli dai 100 euro e quando te ne vai ti rendi conto che ti ha fregato, perché lo specchietto in realtà non era rotto. E a spiegarci bene come funziona questa truffa dello specchietto c'è una persona che l'ha fatto per tanti anni. E per la magia di Radio 24 noi abbiamo una persona che di truffa dello specchietto se ne intende, e se ne intende anche molto bene, no? Perché ci ha campato per anni. E sentiamolo. Ci sta? C'è? Sì. C'è? Sì. Luca? Sì, pronto. Luca? Sì, Luca, sì, pronto. Allora, Luca, innanzitutto diciamo una cosa. Tu hai fatto per tanti anni il truffatore dello specchietto. Per quanti anni? Beh, sono una quindicina d'anni. Calcola che oggi ne ho 45, comincia da 30, quindi fa un po' per conto. Quant'è? Sono tanti anni, sono 15 anni. Cioè, ecco. Spieghi una cosa. Perché hai smesso? Perché ho smesso? Perché te lo devo dire, scusa? Perché non so, sono fatti miei, per amore. Per amore. Ho smesso perché una donna mi ha cambiato la vita. Vabbè, siamo tre amici. Dai, Luca, sbottonati, tanto ormai non lo fai più, no? No, non lo faccio più. Adesso non lo faccio più, ma una donna mi ha cambiato la vita e diciamo che non era del mio stesso, non veniva dal mio stesso ambiente. Era una donna diversa, era bella, era brava. E non mi dire che sta donna l'hai conosciuta proprio mentre operavi, no? Mentre facevi la truffa dello specchietto, o sì? No, non è lei. Fai un riferimento ad una cosa che non mi piace collegare. Va bene. Allora, facciamo una cosa, Luca. Sì. Raccontaci un po', no? Tu dove operavi? Sì. In quale città facevi questa truffa? Ma operavo un po' dappertutto, sai, l'idea buona è di operare nelle grandi città, per cui la capitale, Roma, Milano, Torino, stavo una quindicina di giorni, poi quando la situazione diventava sospetta, è chiaro, no? Cambiavo città, me ne andavo, no? Sospendevo. Ma Luca, in un minuto, anche per fare un servizio ai nostri radioascoltatori, spiegaci in cosa consiste questa famosa truffa dello specchietto. Guarda, allora, un minuto, sì, fammi organizzare. Guarda, diciamo così, allora, guarda, prima di tutto spacco lo specchietto della mia auto, della mia macchina. Ok, sì. Ecco, e poi mi metto dentro alla mia auto, fermo, va bene, in una strada stretta. Guarda, ti posso dire questo, la strada deve essere stretta abbastanza da mettere in difficoltà le macchine che corrono, va bene? È una strada pericolosa, dove le macchine si possono con alta probabilità tamponare, scontrare, ok? Quindi mi metto fermo in questa macchina. Tu ti piazzi là, ok, poi? Esatto. Guarda, devi tenere conto che c'è con me sempre un complice che è appostato sul marciapiede un po' prima di me. Perché prima di me? Perché è lui che mi avverte, cioè appena vede la vittima giusta, che nel nostro modo di vedere è o una donna anziana, una donna, una persona che è distratta, mi fa il segnale. Allora io a quel punto che faccio? Entro io in azione, tiro un sasso sulla fiancata della macchina della vittima, e così la vittima sente un forte rumore. A quel punto è chiaro che crede che mi ha beccato, giusto? Lo faresti, cioè, anche facci tu, capire, giusto? Tu il sasso lo lanci quando la macchina ti sfila accanto? Esattamente, okay. Esattamente. Quindi la persona sente il rumore, certo, e crede per forza che mi ha beccato, non può pensare diversamente, d'accordo? Pensa che ha beccato lo specchietto mentre ero parcheggiato. A quel punto scendo e parlo con la vittima, è chiaro, l'aggredisco, è chiaro, faccio in modo, parlandole forte, di aggredirla, di non farla pensare, di non darle il tempo di organizzare una risposta, d'accordo? Nel frattempo, sfruttando la distrazione della vittima, il mio complice si avvicina alla sua macchina e gli chiude lo specchietto, hai capito? Quindi in quel momento la vittima, cioè, dice, caspita, è vero, perché ho lo specchietto chiuso, no? Che gli ha chiuso in realtà il tuo complice, non è stato chiuso dall'urto accidentale, no? Esattamente, ci sei, hai capito perfettamente. Sento, a quel punto alla prova provata, cioè dice, ho sentito il rumore, era quella macchina che gli sono passato, ed infatti è lui che mi ha raggiunto. Ecco, una cosa Luca, sì, poi tu come lo convinci a farti sborsare i soldi? Perché immagino che troverai anche delle resistenze. Però io se fossi lì nella vittima direi, ok, perfetto, facciamo la lettera dell'assicurazione. Il classico, no? CID, no? Non ti dicono, guarda, va bene, facciamo il CID. Sì, il CID, va bene, il CID è d'accordo, però la cosa che io faccio, quando ovviamente mi si propone una cosa di questo genere, dico, che cosa fa il CID? Stai buono, alza il premio dell'assicurazione, costa tanto, lascia perdere, non mi mettere in difficoltà, mi hai già creato un problema, non mi batti, né che te lo alzi te, né che me lo alzo io, il costo dell'assicurazione, il premio dell'assicurazione macchina, dammi quello che mi devi dare, facciamo quello che mi devi dare, una cifra, non so, 100 euro, e ovviamente io agisco sulla pressione, non sono gentile. Cioè praticamente tu sfrutti il momento di confusione per farti pagare in contanti magari 100, 200, 300 euro. Certamente. E come fai a capire quanto puoi spillare da quella vittima? Tesoro mio, io non lo so se tu sei cresciuto nella bambagia, Cocco Bello. Ma c'è una cosa che nella vita devi capire. Grazie per il Cocco Bello, che carino. Me lo diceva prima la mia ex, adesso mi dice un truffatore. Cioè, pensa come sono messo male. Non sta a fare sorrisi di condanna, non mettete dall'altra parte. No, ma che sta a fare? Non sta a fare niente. La vita può essere strana per tutti, quindi stai buono, non fare l'ironia. No, certo. Io dico Cocco Bello senza prendere per il culo nessuno. Certo. Vai. Allora, ti dico quello che penso io. Forse dimmi. Sei cresciuto, ripeto, senza offesa nella bambagia. Il mondo è fatto di agnelli e di leone, ok? Ci sono gli agnelli e ci sono i leoni. Io allora, non adesso, allora, perché su questa cosa mi rompono il cazzo, io allora, non adesso, d'accordo? Capivo chi era agnello, capivo chi potevo spingere, chi potevo spennare. E tu eri un leone, e tu eri il leone. Non mi piace. Tu che uno del leone è un truffatore, no? Sì, diciamo. Possiamo dirlo che eri un truffatore. Chiamalo come vuoi. Una cosa, Luca, ma quanto guadagnavi al giorno? Una cifretta, anche un migliaio d'euro. Ammazza. Sacco di soldi. E quindi sei riuscito a comprarti delle cose con questi soldi? Sì, certo, mi sono comprato tre case. All'anima. Mi sono comprato un'auto, mi sono comprato anche lo scooter del mio cuore. Ma senti, e non c'è il rimorso che quando stai a casa lì nel letto comodo, perché diciamolo a tutti, cioè tu sei stato un truffatore, quindi è ovviamente una cosa da condannare, allora, te l'ho no? già detto, per come ti ho reagito prima, è chiaro che non mi fa piacere, è chiaro, se no non mi incazzavo, è chiaro che non mi fa piacere riparlarne, è chiaro che non mi fa piacere riandarci col pensiero, io sono una persona diversa oggi, è chiaro. Vabbè. Allora, chiaro. Proprio perché sei diverso, no? Diamo un consiglio ai nostri radioascoltatori per metterli in guardia, no? Per una volta tanto in vita tua dai un consiglio a tutte le persone, ormai quelle che hai fregato ormai è acqua passata, no? Cioè ormai è inutile, impossibile tornare indietro, ma dai un consiglio a quelli che potrebbero cadere nella truffa dello specchietto. Non so da consiglio nella vita, guidate con attenzione e non vi fate via per culo, fate domande, accertatevi e non entrate in soggezione. Mi sembra molto chiaro quel consiglio, ma ascolta, ma ci puoi raccontare di qualche truffa particolare, di qualche personaggio particolare che hai incontrato nel tuo lavoro? Storie, che ne so, capiscono molte donne, tu dicevi, no? Ma tu alludi, sì, è il fatto di quella che mi sono scopato. Beh, usiamo cioè, termini cioè un po' più che praticamente consoni con per cui hai fatto l'amore, giusto? No, di quella che mi sono scopato. È andata sono due cose diverse. Dice. Non so se tu sei il santino della radio, non lo so. Comunque, vabbè, continuiamo. Sant'Umberto mi chiamo. Ma questa chi era? Una persona che ti ha truffato? Io vivo un dramma, vabbè. Mi sono scopato, te lo posso dire, rimango, te lo posso dire. Il problema è che quando io, hai capito, c'è la fase in cui tu parli in testa alla persona, gli dici che cosa mi hai fatto, che danno mi hai fatto. Ora il problema è che in quel momento io non ero più forte di lei, era lei più forte di me, si è messa a ridere, mi ha preso per il culo, mi ha fatto oh, stai calmo, tiette pelle, mi ha risposto in romano con una frase che dice tiette pelle, tipo come che mi tengo tiette pelle, stai calmo, non succede niente. È stata simpatica, mi ha spiazzato. E poi? Da quel momento è nata una simpatia, bisognava esserci, stavo lì, lei ha scherzato, io ho detto Vabbè, scusami, andati a prendere un caffè, ci siamo risentiti e siamo stati insieme. Hai capito? Però ci tengo a dire, perché se era quello che alludevi all'apertura quando hai detto è la donna, non è lei la donna della mia vita. Quella è un'altra. L'altra è arrivata dopo e mi ha cambiato. Hai capito? Ma Luca, ma che ce l'hai con me? No, non te conosco, ma a me sembra che dalle domande che fai a volte vivi sulla luna, tutto qua. No, ma Umberto, io non ce l'ho con te, scusami. Ma Umberto, si mette dalla parte degli ascoltatori, che vogliamo far capire a tutti come funziona questa truffa, che appunto non è una cosa reale, no? Ma senza offesa, mi sembra solo che sta sulla luna, mi sembra solo che è in santino, tutto qua, oggi per campare cosa fai? Faccio una vita diversa, faccio un lavoro onesto. Meno male. Cioè, fai un lavoro onesto? Sì. Che lavoro fai? Si può dire? Sono un barista. E come ti senti oggi che magari per guadagnare uno stipendio normale devi lavorare un mese intero? Non me ne frega un cazzo, sai perché? Perché c'è lei nella mia vita. Tutto qua, già te l'ho detto. Tanto ci sono dimessi. C'hai 3 appartamenti, ormai c'hai bene al sole, stai a posto. Non è proprio poi finita così, ci ho avuto altri problemi. Sugli altri problemi. Per ora caliamo un velo pietoso sugli altri problemi. Luca, intanto grazie, perché immagino che non è stato facile per te parlare di questi. Se ti ho offeso, ti chiedo scusa. No, ma che mi ha offeso? Non te lo ti chiedo scusa. Noi siamo qui a Radio 24, siamo tra amici, quindi non ti preoccupare, insomma, nessuna offesa, insomma. Poi se mi vuoi mandare a fare in culo, insomma, libero di farlo, cioè non c'è problema. Non l'ho fatto, ho solo creduto che tu venissi da un altro mondo, mi devi scusare. Ma noi veniamo da un altro mondo, siamo fuori posto. Noi siamo disadattati, Luca. Cioè, siamo delle persone che si sono inventati un lavoro e speriamo che quelli di Radio 24 ancora ci cascano. Speriamo, no? preghiamo Dio. E non ci cacciano a subito in culo. Ciao Luca, grazie tante. E passiamo adesso da il truffatore a chi questa truffa l'ha subita. No? Sono persone, spesso anziane, spesso donne, che purtroppo sono soggette di questo tipo di truffa. E noi ne abbiamo con noi una. Eh sì. Ci senti, Iole? Sì, ci sento. Allora, Iole, è vero che anche tu sei rimasta vittima della cosiddetta truffa dello specchietto? Purtroppo. Allora, tu quanti anni hai? Ce n'ho 83. Quindi, la classica vittima. Profilo perfetto, no? Quando è successo? 3 anni fa è successo, un paio d'anni fa, che io andavo sulla Brucea, che c'è mia sorella. Scusa, ti interrompo, parliamo di Roma, tu stavi a Roma, vai. Sì, sto a Roma, via Brucea. Tornavo da via Brucea, andavo a casa mia, ai Colli Portuensi, lungo quella strada, appunto, dalla Brucea che fa via Che è successo? Tutto un tratto io camminavo bene, io non, nelle macchine sto attenta di non toccare né a destra né a sinistra. Tutto un tempo ho sentito una botta, boh, dico che cavolo è, dico sarà forse qualche cosa che mi si è rotto nella macchina, che non me ne sono accorta, come si chiama quella? Che è successo? Quindi senti una botta? Invece un ragazzo mi si avvicina, ma signora? E dice, senti, vedi che cosa mi ha fatto, che mi ha fatto? Dico, ma io la botta l'ho sentita, ma io non ho toccato niente. E no, no, lei mi ha toccato lo specchietto. Guardi qui, questo specchietto. E io mi sono fermato, dico, ma guardi che io non ho toccato niente. E ecco, lo vede lo specchietto? La botta che ha sentito era lo specchietto che lei mi ha toccato. E questo specchietto io l'ho pagato 300 euro, bisogna che lei me lo paga, o se no facciamo... dico, senta... Io non l'ho toccato proprio, dunque che cosa vuole da me? Dice, me lo deve pagare, dice, mi dia la... no, io dico, allora io, dato che non mandava di fare la denuncia e compagnia bella, dico, senta, io ho 50 euro, se lei le vuole bene, se no facciamo l'assicurazione, che le devo dire? E lui? E lui mi ha detto, beh... proprio perché lei che la cosa mi dia questi 50 euro e però un'altra volta si attenta. Dico, ma se io non ho toccato, io mi sentivo mortificata perché veramente non ero io. Poi dico, ma possibile? Beh, e poi com'è finita? L'hai pagato? E io ho dato le 50 euro. I 50 euro gliel'ho dato. Quindi alla fine è riuscito a sfilarti 50 euro. Quando è che hai capito che... Sì, 50 euro gliel'ho dato e una cosa. Poi... è ripassato un annetto, una cosa, un'altra volta, no, lì, qui vicino casa, su via Ramazzini, una cosa, dalla circonvallazione Gianni Polenze, ecco che andavo. Uno mi si mette a cosa, ho sentito un'altra volta la botta. Un'altra volta? Io, sì. E quel caso? Allora dico, senta, dico, ma io veramente non ho toccato niente. Come non ha toccato? Ma rotto. Io sono un'anziana, veramente a me non mi rada a trattare una cosa. Ma questa seconda volta i soldi gli hai dati oppure no? Invece ho detto, senta, allora chiamiamo l'assicurazione perché Bravo. Io... Avevi capito, infatti, che era la truffa dello specchietto. Infatti il modo migliore, diciamolo ai nostri radioascoltatori, per bloccare questi truffatori e dire, ok, perfetto, vi ho toccato, chiamiamo i carabinieri, chiamiamo l'assicurazione, chiamiamo i vigili urbani. È il modo per disinnescarli. È il modo, insomma, vedrete che nel giro di 30 secondi spariscono, no? Grazie Iole, e invece adesso parliamo con chi combatte, no? Sì, perché il male. Diamo una mano a chi potrebbe essere una teorica vittima di questi truffatori dello specchietto. E abbiamo con noi il maggiore Agnello Schettino, che ci dà un po' di consigli su come evitare non solo questa truffa, ma tante altre che girano nelle strade italiane. Comandante della compagnia Buongiorno. Dei carabinieri di Roma Centro, giusto? Buongiorno, maggiore. Buongiorno. Benvenuto a Radio 24 e grazie per essere qui. Grazie a voi. Maggiore, ma questa truffa dello specchietto quanto è diffusa? È molto diffusa in molte varianti, perché i criminali, i malfattori si ingegnano di inventarsi metodi e trucchi diversi per truffare o comunque asportare i beni, i soldi, a volte anche utilizzando questi stratagemmi per rubare la borsa contenuta in macchina sul sediolino laterale, per esempio. Ah, quindi c'è una variante, insomma, cioè oltre che spillarti i soldi, magari ti sfilano la borsa nella sì, peggiore... Purtroppo ce ne sono molte di valanti. Sì, è capitato che con la scusa di anche la macchia d'olio, l'olio che... perso dalla macchina, oppure di un incidente, una gomma bucata, fanno scendere il guidatore e poi semmai un complice o la stessa persona che ha dato l'allarme fa il giro dalla macchina, per esempio ruba la borsa, il portafoglio, il telefonino poggiato sul cruscotto, sul sedolino. Maggiore, la interrompo perché ci scrive Francesco ai fuoriposto @radio24.it, ci scrive: a me hanno fatto una truffa molto simile con la variante dell'iPhone, cioè praticamente ci scrive, riassumendo perché è una mail molto lunga, che praticamente si è appostato all'angolo di una strada un ragazzo con il vetro dell'iPhone già rotto, evidentemente, e gli ha detto: guarda, mi ha urtato, mi ha fatto rompere il telefonino, mi ha urtato con il bordo della macchina, adesso mi devi dare 100 euro. Dice lui, per evitare problemi, per evitare denunce, gli ha dato 100 euro e insomma, e poi ha capito, poi è andato su internet e ha scoperto che anche lì si trattava di una truffa. Conosce questa variante, maggiore? Sì, qualcosa di simile è capitato. Diciamo che i metodi sono pressoché infiniti. Loro, i malfattori, sfruttano le persone vulnerabili, cercano di far leva su quelle che sono le nostre paure, anche di avere ripercussioni legali o anche economiche, quindi minacciano la possibilità che si possa poi andare incontro a situazioni peggiori e allo stesso tempo fanno il buon viso di dire, quasi a venire incontro a quelli che sono invece vittime, e proponendo appunto un accordo economico che loro prospettano vantaggioso, ma in realtà è una truffa. È una sola, lo possiamo dire, no? Maggiore, le strade italiane sono a quanto pare piene di truffe. Un consiglio da dare ai cittadini, alle persone comuni, per evitarle? Perché immagino pure che ci sia anche un po' di paura nel momento in cui ti trovi di fronte un malfattore del genere. Ma dia un consiglio alle persone per evitare di essere truffate. E l'unica cosa è chiamare subito le forze dell'ordine, fare il 112 o anche far finta di chiamare. L'importante è in qualche modo richiamare l'attenzione di altri passanti. Non fidarsi mai, è brutto dirlo, ma è un dato di fatto, di chi si avvicina e soprattutto chiede soldi in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo che non conosciamo. E quindi la prima cosa che sicuramente fa desistere, fa allontanare immediatamente, perché la paura di essere poi fermati, arrestati, denunciati è più forte della voglia di aggiungere mettere reato. Grazie, di chiamare le forze dell'ordine. Grazie mille, Maggiore, grazie per il prezioso lavoro che fate e insomma proteggeteci. Cioè, e poi soprattutto facciamoci pure un po' furbi, non sottostiamo, no, a questi personaggi, e facciamoli capire che non abbiamo paura e che siamo disposti a chiamare i vigili urbani o a fare il CID, perché in un attimo si dileguano e ci si salva da questa truffa. Esatto. Buona giornata. Grazie. Sai che pensavo, Filippo? Che bello. Alla fine poi succede, no? Che c'è la mancanza di fiducia che si crea nelle relazioni tra la gente, no? C'è la diffidenza, no? Che magari ti ferma uno che poveraccio c'ha bisogno di aiuto, oppure magari ti vuole dire guarda che perdi l'olio, guarda che ho bisogno di fare una telefonata. Non lo fai. E questa è una cosa terribile, no? Però quella è la truffa più infame, no? Fa leva sulla bontà delle persone e ti senti doppiamente fregato, no? Sui sentimenti e sulla tasca o sulla borsa che ti è stata portata via. Vedi, il nostro truffatore dello specchietto ha trovato un posto, poi si è accorto che quel posto da truffatore era un posto del cazzo, lo possiamo dire, e per fortuna adesso fa un lavoro onesto. E no? Soprattutto si è innamorato, ha trovato anche un posto, il suo cuore, per amore ha rinunciato alla sua attività di truffatore. Il Fuori Posto torna tra poco su Radio 24. Noi di Radio 24 per le Olimpiadi ci facciamo in due. Doppio appuntamento infatti in diretta con me, Carlo Genta, ogni giorno da lunedì a venerdì, tutti convocati dalle 14 alle 15 per tutti i temi sportivi. E raddoppio con tutti convocati alle Olimpiadi, sempre da lunedì a venerdì, dalle 18 alle 20, con me e con Giovanni Capuano e tutti i nostri ospiti e inviati, per non perdere proprio nulla di questa incredibile estate di sport. Fuori Posto. Ahimè per voi, eccoci di nuovo qua, Filippo Roma e Umberto Lezio ai Fuori Posto. Umberto, tutto a posto? Sì, tutto a posto, e passiamo di palo in frasca, no? Come diciamo... Come facciamo sempre. Sempre. Tutti i giorni lo facciamo. E anche il bello dei Fuori Posto, no? Non abbiamo un argomento specifico, ma a seconda... di dove tira il vento, purché le persone che hanno a che fare con noi siano rigorosamente fuori posto. Fuori posto. E una fuori posto, no? Che sta cercando di trovare un posto, no? È Martina Dell'Ombra. E chi è? No. Martina Dell'Ombra è un'aspirante politica, no? Che è un po' come i grillini. Interessante. È partita dal basso, è partita dal web, no? E a suon di click, sì, no? Sì. A suon di visualizzazioni, si è guadagnata la popolarità. Tant'è che adesso è definita una vera e propria web star. Il suo sogno è fare politica. E Martina, per l'appunto, a suon di visualizzazioni, di grandi numeri, alcuni suoi video superano il milione di click e il milione di mi piace, ci sta riuscendo. E qui con noi, vero, oggi? Ciao a tutti! Ciao Martina, benvenuta ai Fuori Posto! Che onore averti qui! Grazie! Come stai? Sto molto bene, grazie. Sono felice di essere qui con voi, ma soprattutto però devo dirvi una cosa, perché non mi è piaciuta molto la mia descrizione. Mi avete paragonata a una dei 5 Stelle. Perché non ti piace questa descrizione? Cosa hai contro 5 Stelle? Perché secondo me i 5 Stelle non sono politici, perché sono persone normali, e le persone normali un po' così poeracce non possono fare i politici. Ma come? Allora, non so se avete capito, ma c'è un sacco di roba, quindi io prima di approfondire l'argomento farei partire il nostro momento fuori politica. Cioè, facci capire, Martina, le persone normali, no? Cosa hanno che non vanno? Beh, le persone normali non possono decidere per gli altri decidono le persone superiori agli altri, per l'appunto, quindi i politici. È per questo che i politici di solito guadagnano di più, sono più ricchi. Ho capito, ma il bello, scusami Martina, il bello dei 5 Stelle è che sono persone che magari il giorno prima facevano gli operai, lavoravano in fabbrica. Ma è un disastro, cioè che ne sa un operaio di cosa decidere per il paese? È assurdo. Ma, no, è gravissimo. Gravissimo. Ma la politica la possono fare tutti? No, la possono fare le persone, come già succede. Cioè, non è che Renzi è uno come tutti gli altri, non è che la Basti una come tutte le altre, per fortuna. E che sono loro, scusa? E loro sono figli di persone che importanti, che facevano politica prima di loro, e quindi sono privilegiati. Tu dici il politico deve essere un professionista, uno che si erge sulla massa, sugli altri. Deve essere intanto più ricco degli altri, avere avuto più formazione e quindi saperne di più. Nel senso, cioè, che comunque deve andare a tutelare gli interessi della popolazione comunque più ricca del paese, importante. Più ricca? Ma scusa, no, invece io sapevo, poi, ma correggimi se sbaglio, Filippo, che la forza della buona politica è tutelare le classi più deboli, no? Certo. No, non si confondiamo, le classi più deboli le tutelano le associazioni umanitarie. Ma come? Che stai dicendo? Scusa Martina, ma l'obiettivo del politico. Martina, fa politica, ma qui l'obiettivo di un politico deve essere migliorare le condizioni socio-economiche dei poveri, dei disoccupati, aiutare, come diceva Umberto, i più deboli. Sennò che politico a quello ci pensa l'ONU, l'UNICEF, ma che c'è? Ma quelle sono organizzazioni internazionali. La chiesa italiana. Allora, no, io intanto mi dissocio. Intanto è stata una pessima idea ospitare Martina. Infatti, ma qui... tu sei dei 5 Stelle? No, ma che sei dei 5 Stelle? Noi non esprimiamo le nostre idee, noi siamo equidistanti, Martina. Ma che ce l'hai con quelli dei 5 Stelle? No, è che è grave, è una cosa pericolosa per il paese. Veramente. Cosa è pericolosa? Scusa. Il 5 Stelle. È pericolosa, a parte il fatto che per fortuna anche loro sono governati da un super ricco che è Beppe Grillo. Super ricco. Ma scusa Martina, i 5 Stelle hanno vinto a Roma ha vinto la Raggi, a Torino ha vinto l'Appendino, quindi il popolo, l'elettorato gli dà fiducia a questi 5 Stelle. Dopo che ha vinto la Raggi, infatti io me ne sono andata da Roma, me ne sono venuta a Milano, proprio perché qua c'è un sindaco super ricco quindi sto finché non cade la Raggi. Quindi tu sei in asilo politico a Milano? Sì. Scusa, io non voglio contraddirti, no? Perché poi so che sei molto amata. Ma la Raggi è stata votata, no? E quindi ha vinto a Roma proprio perché era avvocato, credo, giusto Filippo? È un avvocato. Perché si è fatta votare da Poverelli. Ma che ce l'hai con Poverelli? Ma sta trasmettendo questo ideale che per fare politica devi essere povero pure tu. E infatti sta già facendo danni, cioè non si può pagare la babysitter. Non si può pagare la babysitter, si parte il bambino lì in comune sulla sedia del sindaco. Appunto, dimostra che è come tutti gli altri, che è finalmente un politico come la gente, a contatto con la gente. Ma non può essere un politico, cioè, ma chi li vuole bambini al comune? Già, cioè, ma era un'immagine bellissima, tenera, no? Questa mamma sindaco. Comunque, la forza di Martina, no? Sono le idee, no? E molte sue idee, no? Sono molto apprezzate sul web, no? Molto criticate e molto apprezzate. Sì, perché io ho la forza di dire quello che penso. Per esempio, no? L'ex sindaco di Roma è andato un po' nei casini anche quando ha celebrato, no? Le unioni civili, no? Quindi sì, sull'argomento... A parte il fatto che lui comunque sia stata proprio una cosa fatta apposta contro di lui, perché lui non ha fatto niente di che, cioè si è fatto delle cene importanti e ci mancherebbe pure. Si sono lamentati che si prendeva bottiglie di vino da 200-300 euro. Ho capito, ma quello se le pagava il sindaco di Roma, quei soldi dei cittadini se le pagava, quei soldi dei cittadini. Certo, ma è giusto, perché è giusto, per rappresentanza, te pare che il sindaco di Roma ma può fare il tavernello. Comunque... col tavernello, ma che ce l'hai col tavernello? Scusa, c'è gente che purtroppo non può permettersi se non altro che il tavernello. Scusa, no, però il sindaco di Roma ti deve permettere tutti i vini che vuole. Scusa, al di là di tutto, no? La cosa che mi interessa, no? E che interessa ai nostri radioascoltatori è la seguente: di un'idea molto chiara, molto netta, no? Sull'argomento omosessuali. Cioè, visto che vuoi fare politica, no? Sì. Vai. Allora, io ho espresso questa mia idea, ho detto che in realtà io ho un sacco di amici gay, comunque sono persone molto carine, molto simpatiche, non bisogna comunque odiarle, vedi? Comunque come i malati e come tipo i down non è colpa loro. Come i malati e down? Ma che sei matta? No, Martina, io mi dissocio, Roberto, mi dissocio. Ma se tu che l'hai trovata questa, io mi dissocio da te. No, io non voglio essere licenziato da Radio 24 perché hai pescato Martina dell'Ombra. Ma perché qualcuno di voi è fracio? Ma che vuoi dire? Adesso lasciamo perdere i nostri gusti sessuali, forse no, non lo sappiamo, ma non interessa. Ma che c'entra questo? Perché non è colpa loro, cioè ci nascono così, capito? Gli piace... Scusa, ma perché che ce l'hai coi froci? Non ho capito. No, mica ce l'ho, anzi hanno i miei stessi gusti perché anche loro amano tantissimo il rasa e poi di solito sono anche molto abbienti e quindi comunque sono persone di un certo livello. Cioè quindi tra te e i froci va comune il rosa, mi pare di capire, sì, giusto? Sì, perché... Ah, evviva! Oh, che bello, Martina. Senti, ma tornando alle tue tematiche politiche, no, che sono molto serie, sei favorevole ai matrimoni fra gay? Si parla tanto di unione civile, è stata approvata questa legge che finalmente ha rappresentato un'apertura. Ecco, tu saresti anche per un passo in avanti? Ma è stato fatto le unioni civili proprio per non farli sposare, perché sinceramente due maschi con l'abito bianco è un obbrobrio. Vabbè, non sta per forza con l'abito bianco. Brutta, no. Vabbè, no, cioè, nel senso, mica devono stare per forza con lo stesso vestito. Cioè, magari uno è vestito di bianco, uno di nero, uno di rosa. Insomma, sì. Ho capito, ma un maschio con l'abito da sposa sta male. Cioè, una cosa orrenda. Ma tu non sei per la libertà. Non sei per la libertà. Un politico dovrebbe battersi per la libertà. Ho capito, certo, però la libertà in casa propria. E che vuol dire casa propria? No. I gay stanno dappertutto, anche a casa nostra, i gay sono ovunque, sono anche tuoi amici. Come gli etero, no? Come gli uomini e le donne. No, ci sono delle cose che sono quelle che sono super importanti. Comunque il matrimonio è tra maschio e femmina, anche perché gli abiti da sposa sono fatti per le femmine, cioè non è che mo ci possiamo mettere a cambiare tutte le cose. Cioè, comunque il problema sono i vestiti, insomma, Umberto. Quindi... Comunque posso dire una cosa? Ho sbagliato. Martina, io ti avevo presentato, no, come... la ragazza aspirante politica venuta giovane. Io sono più che aspirante politica, sono già quasi una politica. Appunto, però sei giovane, giusto? Sì, comunque non è che i giovani sono tutti fragili come voi, Ma ci dai così dei froci senza sapere. A parte il fatto che Filippo è sposato, non posso dire felicemente, però insomma è sposato. E vabbè, però magari va con i maschi di nascosto. Ma che ci hai mandato con i maschi? Ma che stai a dire? Ma non diffondiamo idee false e tendenziose. Filippo, vai con i maschi di nascosto? Ma mai stato, cioè, l'unico maschio che frequento questi giorni è Umberto, ma per motivi di lavoro e basta. E quindi andate tra di voi, di nascosto. Ma come ti permetti? Ma poi anche se fosse, appunto, cioè, che problema c'è? A parte che sì, lo confesso, Filippo mi piace. Filippo mi piace, però qual è il problema? Fallo lasciare con la moglie. Ma che c'è? Sei sposato? Guarda, ritorniamo alle idee, no? Infatti, perché la forza di un politico sono le idee, esatto, no? Allora, avevi avuto anche un'altra idea, mi pare, no? Tipo un'app, avevo letto da qualche... Assolutamente sì! Allora, perché comunque non è che, dicevo, gli omosessuali comunque sono carini, possono essere anche utili alla società se si impegnano. Ottimo. E quindi ho sviluppato un'app che rivoluzionerà comunque per sempre la vita di tutti gli omosessuali nel mondo, ma anche di tutte le coppie, che si chiama Child Sharing. Cioè? Perché con Child Sharing praticamente sai che le coppie che hanno i figli non possono fare niente. Sì, sì. Ok, con Child Sharing individuano le coppie di froci o i froci circostanti. Ma andiamo con i termini, scusa, omosessuali gay, siamo anche in orario fascia protetta. e li possono dare a tempo i propri bambini. Ovviamente non li possono tenere la notte, eh. Ma scusa, perché no? Qual è il problema? No, perché i gay con bambini la notte non possono stare. Ma questa cosa è un'idea orribile. Ma che cosa dici? Scusa, ma perché un gay non può stare con un bambino di notte? Sì. Però per qualche ora sì, quindi tu ma così sfrutti le persone? I gay che ci sono in giro, no, perché loro vogliono avere figli, non li possono avere, così almeno fanno da babysitter ai figli degli altri, così loro si sentono normali per qualche ora. Guarda, io questo è uno sfruttamento dei gay. Io insomma, allora no, questa cosa è orribile. Sono lavori socialmente utili. Io mi ridissocio da questa cosa. Un politico oscuro questa Martina Dell'Ombra. Guarda, Martina, facciamo così, prendiamoci una pausa, no? Pensiamoci. Fai una cosa, Martina. Saluta sì. Tutti quelli che ci stanno ascoltando da casa o da sotto l'ombrellone, cosa molto probabile visto che siamo in agosto. Ok, allora ciao a tutti gli ascoltatori e a tutti quelli che soprattutto sono under the umbrella, come dico io, quindi sotto l'ombrellone. Un chissino a tutti, ciao! Un chissino a tutti, insomma, noi su un chissino a tutti, no? Ci fermiamo sì, qui. Fermiamoci qua e speriamo che sia l'ultima volta che sentiamo Martina Dell'Ombra. Ma vediamo, perché insomma è giovane, insomma, è giusto darle un'altra possibilità, secondo me. Pensiamoci. Noi, siete d'accordo con Martina Dell'Ombra? Vi ha fatto schifo? Vi ha fatto letteralmente venire la pelle d'oca? Scriveteci ai fuoriposto @radio24.it oppure lasciate un messaggio in segreteria allo 02465 24182, oppure un bel messaggio SMS WhatsApp al 349 2386 666. Oppure se volete criticare fare i complimenti a Martina, potete Siamo in democrazia. Siamo in democrazia, potete andare sulla nostra pagina Facebook che è i fuoriposto e commentare o semplicemente insultarci o insultarla, insomma. Siamo in democrazia, giusto Filippo? Esatto, cioè libertà di insulto. Noi torniamo tra qualche minuto e sempre qui su Radio 24, i fuoriposto. I fuoriposto. Allora, di nuovo qui ai fuoriposto, scriveteci le vostre storie, le vostre avventure a ifuoriposto@radio24.it via WhatsApp al 349-2386-666. Ecco, a proposito di WhatsApp ci scrive Simona che dice anche io vorrei trovare un posto in televisione, no? E a questo punto, Simona, niente, ti contatteremo nei prossimi giorni. Cioè, nei prossimi giorni tu sarai ospite qui a Radio 24 ai fuoriposto, no? Se sei buona, sì, se no è difficile, mio caro. Cioè, sei sempre tu, Filippo Roma, non sei Brad Pitt, eh? Vabbè. Comunque, a proposito di posto al mondo, c'è una persona che ha trovato un posto veramente importante per tanti uomini che hanno un piccolo problema, no? Sì, è un posto, come dire, che regala felicità, no? Regala felicità, benessere, no? E tanti soldi a chi questo benessere lo produce. Allora, qui in esclusiva mondiale sui microfoni di Radio 24 c'è il dottor Jamal Sali. Ci sei, dottore? Sì, eccomi, ci sono, come no. Ah, dottore, in cosa sei specializzato? Io sono specialista nella chirurgia del pene, ovvero facciamo interventi di allungamento e ingrossamento del pene. Oh, Umberto ha risolto finalmente. A posto. Per me, io sono un caso disperato, cioè, insomma, non esistono casi disperati. Tu fai anche miracoli? Rimedio a tutto. Per me serve un miracolo, ma lasciamo stare perché insomma lì entriamo in un altro campo, quindi assolutamente. Allora, Jamal, ti diamo del tu, va bene? Assolutamente. Allora, no. Jamal, tu praticamente fai l'allungamento del pene, no? Che è una pratica molto diffusa, no? Perché è una richiesta abbastanza importante. Molti uomini hanno la cosiddetta dismorfofobia, ovvero comunque sentono di avere il pene piccolo e si rinascono quando li fai un pene più grande. Ecco, come avviene l'allungamento del pene? Siamo tutti curiosi, cioè tecnicamente come si allunga un pene? Beh, ci sono delle tecniche chirurgiche in cui viene portata fuori una parte del pene che sta dentro. Tu calcola che in linea generale il 45% del pene solo sta fuori, il 55% sta dentro il corpo, per cui noi tiriamo fuori quella parte che sta dentro. C'è tutto un pene sommerso di cui assolutamente disponiamo. Infatti si chiama, in alcuni casi precisi, si chiama pene sepolto. Vedi, alla fine, ognuno c'è chi lotta per far emergere il lavoro sommerso, il lavoro nero, e invece il dottor... Noi invece facciamo il pene sepolto, lo tiriamo fuori, quello sommerso, quello invisibile. Tutto sprecato poi sto pene che ci abbiamo sepolto. Beh, comunque è importante perché lo tiene comunque saldamente attaccato al corpo, però tante persone, comunque la maggior parte del loro pene sta completamente dentro, per cui tirandolo fuori ne possono usufruire meglio, avere una vita sessuale più soddisfacente, ma essere anche più felici, più contenti, più soddisfatti di loro stesso, migliore ego. Quindi, a proposito dell'ego, no? Quindi diciamo che la maggior parte dei casi è più una questione psicologica, giusto? Sì, ma infatti io non discuto mai con le persone di motivazione, ma in linea generale la motivazione è molto semplice, che la persona lo vede più piccolo di quello che è effettivamente, realmente. Ok. Senti, che ti è successo ultimamente, Jamal? Ma no, mi è successo un caso, una persona, un giovane signore che è venuto da me e per ovviamente fare un intervento del genere, mi ha fatto un bonifico che non è mai arrivato, mi ha dato degli assegni che poi alla fine sono risultati addirittura rubati. Ascolta, che cifra avevate pattuito per questa operazione? È un intervento che ha un costo complessivo di circa 12.000 euro. Va bene, questo signore viene da te e ti chiede l'allungamento del pene per 12.000 euro. Poi che succede? Sì. E poi ovviamente doveva lasciare un deposito per la prenotazione dell'intervento e per tutti i costi e ha effettuato un bonifico che ha mandato una copia, diciamo, dell'avvenuto trasferimento di denaro a noi via email, per cui noi lo abbiamo dato per buono. E poi è arrivato in clinica, si è ricoverato, ha fatto gli esami, ha fatto l'intervento e la sera ha fatto degli assegni, ha rilasciato degli assegni a copertura del resto della somma. E alcuni giorni dopo ci siamo resi conto che uno, il bonifico non è mai arrivato, e due, che gli assegni andati in banca a versarli, praticamente la banca mi ha comunicato subito: guardi dottore, che facciamo? Chiamiamo noi il carabiniero o li chiama lei? Vabbè, dottor, diciamolo in parole povere, t'ha fregato, no? Cioè praticamente questo si è fatto allungare il pene e poi è scappato ancora con le bende, no? Non ha pagato il conto, giusto? No, ma poi alla fine la cosa carina è che è tornato a fare il controllo e praticamente ha sostituito diciamo una parte di quegli assegni che non avevamo dato ai carabinieri con un altro assegno che quello era completamente senza fondi. Ma una cosa, dottore, ma l'operazione era riuscita? Assolutamente, perfettamente, ed è contentissimo, cioè me l'ha detto espressamente. Ah, lui ha detto grazie dottore. Ma è una persona simpatica, ha capito questo concetto. Ma chi era? Che quanti anni aveva? Pure un po' male. Ora, senza fare i nomi. 26-27 anni. Ah. Che faceva nella vita questo? Fa l'imprenditore. Ah, quindi soldi. Che mi ha detto. Ce l'avrebbe pure i soldi. Ma in teoria dovrebbe averli, si capisce, però io credo che comunque sei una persona che in qualche maniera riesce a gestire la faccenda e non ti fa rimanere molto male. Ma facciamo una piccola regola, perché uno a 27 anni già si rivolge a un chirurgo per un intervento comunque invasivo, no? Così importante secondo te, Jamal? Beh, grande invasività non c'è, comunque devo dire, dell'intervento, perché l'intervento comunque viene fatto in dei hospital, c'è un'astinenza dal rapporto sessuale per una quarantina di giorni, bene, però comunque i risultati sono evidenti, chiari e danno alla persona. È come quando tu porti una macchina da un tecnico e ti fai potenziare il motore, ti senti più soddisfatto, più contento. Ecco, ci scrive un nostro radioascoltatore che è Pasquale da Rimini. Secondo me Pasquale non è proprio di Rimini, non ha origini romagnole. Ci scrive: sono tutte cazzate, non è vero, questa operazione non funziona. Che gli rispondiamo a Pasquale? Beh, gli rispondiamo che probabilmente lui non se l'è mai fatta fare, uno, o due, se l'è fatta fare, se fa magari... Ah, Pasquale, infatti fa questa operazione, no? Vai da Ciamà. Dottore, ascolta una cosa, dottore, continuiamo a fare questo lavoro da 30 anni è perché sicuramente ci sono dei risultati. A proposito dei risultati, qual è il massimo di cui si può allungare il pene? Beh, dipende dall'anatomia della persona, ma in linea generale si va da 1 a 5 centimetri. La media 5 centimetri. È intorno a 2,5-3. Vabbè, io e te non ci abbiamo speranze, insomma. E poi un'altra cosa, ma una volta fatto l'operazione tutto torna come prima? Cioè si ricomincia a fare l'amore normalmente? Sì, tranquillo, sì, non succede nulla. Io dico sempre una cosa molto banale, noi facciamo il carrozziere in questo caso, non facciamo i meccanici. Ah, okay. Il motore del pene rimane esattamente funzionante, perfettamente come prima. Vai, un bel... Senti, Senti, addirittura tante persone comunque riferiscono che vanno meglio perché probabilmente sono più soddisfatti psicologicamente, più emotivamente, psicologicamente. Valentina ci ha mandato un WhatsApp adesso, sempre qui, dicendoci: adesso contatto subito il mio ragazzo. Jamal, già abbiamo trovato un cliente qua. Sono contento. Allora, siccome Radio 24 ha bisogno, e anche soprattutto io e Filippo, sono veramente contento. Che ci puoi dare? Il 10%? Facciamo il 20%? No, vabbè, insomma, un medico non potrà mai parlare di percentuali, non esiste. Vi sarò molto grato. Magari ci fai un'operazione, due operazioni a costo di una, ci fai, magari, dai. Beh, no, magari no. Questo ne possiamo parlare, io posso operare anche gratis. Allora, me lo impedisce. Siccome questo è un programma, anche di servizio pubblico, no? Ovviamente noi siamo due idioti, quindi dobbiamo fare un servizio pubblico basso, non è che ci possiamo occupare di macro temi, siamo due, sì. Insomma, quindi questo è un tema fondamentale per tantissimi uomini, per te sì, insomma, soprattutto di recuperare soldi, sì. Comunque, allora, noi facciamo servizio pubblico, no? E facciamo anche recupero crediti, no? Qui fuori posto. Allora, ascolta, adesso noi proviamo, tu rimani qui con noi in linea in silenzio, perché noi proviamo a chiamare questo tuo paziente che non ti ha pagato. Sì. Allora stai zitto e non fiatare, noi qui in diretta in questo momento proviamo a chiamarlo e vediamo, e nel momento in cui lui dice pronto tu gli rispondi e dici: oh, ma che cazzo, non mi hai pagato, quando torni a darmi il resto dei soldi, va bene? Il truffatore mini dotato, chissà se ci risponde. Servizi di segreteria telefonica. Da Buonsola, irraggiungibile. Da Buonsola avrà cambiato il numero. Comunque noi ci riproviamo. Noi non molliamo, Jamal. Va bene. Senti, allora, intanto facciamo un appello. Caro signore, io ci sto ancora aspettando. Insomma, che devo fare? Mi devo rivolgere a qualche recupero crediti oppure tornerai da solo a pagarmi? Comunque, insomma, ti aspetto. Vabbè, niente. Jamal, speriamo che tu abbia almeno sentito, perché al telefono non ci risponde proprio. Vabbè, niente, noi ti ringraziamo, noi continueremo a stare sulle tracce del truffatore mini dotato e insomma, Jamal, appena riusciamo a beccarlo ti chiamiamo, vi mettiamo in contatto e niente, Filippo. Perfetto. Speriamo tramite di voi recuperare qualcosa. Ci proviamo. Dai, ciao Jamal, a presto. Jamal, vanno bene anche 2-3 mila euro, 5 mila euro invece di tutta la somma, giusto? E vabbè, insomma, se mi dà una parte almeno recuperiamo le spese, perché addirittura almeno le spese di tasca mia. Come quando un amico ti dice almeno le spese, no? Sì. Jamal, allora ci vediamo al tuo studio, ti porto Umberto, vediamo se riesci a fare sto miracolo. Assolutamente, vi aspetto. Arriveremo presto, Jamal, grazie. Ciao, buona ciao. Giornata. Ciao. A voi, ciao. Vabbè, Fili, anche per oggi l'abbiamo sfangata. Pure oggi è andata, non ci hanno ancora cacciato a calci in culo. No, per il momento no. Siamo riusciti a superare indenni il secondo giorno. A questo punto dobbiamo andare al terzo giorno e dovrete darci una mano, cari amici. Scriveteci le vostre storie. Tutti quanti. Dove? È molto facile. I fuoriposto @radio24.it oppure WhatsApp a 349 23 86 666. Mi raccomando, i fuoriposto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11, sempre qui su Radio 24. Intanto, ci vediamo domani. Filippo Roma e Umberto Alezzi vi salutano. Ciao, tutto a posto.